la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Barbara Luna, rosso scudo, il re degli Unni guardava Roma. Uomo di poca fantasia, lui la scambiò per una stella. Quando gli uomini giunsero in collina, aveva sciolto l'armatura e fu per ignoranza o per sfortuna che perse il treno per la luna. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quando il leone gli prese la mano, lui alzò il pugno chiuso e il suo coltello. Forse mentiva l'uomo bianco, lui era proprio suo fratello. La la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la flagellum flagellum dei, la la la la la la la la la, flagellum flagellum agnus dei. Quando i carri gli volsero le spalle, leone levò il calice al cielo e fu per ignoranza o per sfortuna che questa stella figlio è ancora a Roma. La la la la la la la la la la la la la. Che questa stella figlio è ancora a Roma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.